La proposta di legge ha solamente uno scopo: fare in modo che le persone senza dimora, cioè coloro che sono diventati così poveri da finire in strada e da perdere anche la residenza, possano essere curate. Oggi queste persone non hanno diritto all'assistenza del Servizio Sanitario Nazionale, hanno diritto solo a prestazioni di pronto soccorso, per cui o stanno per morire, si rompono una gamba e allora possono andare in pronto soccorso, oppure restano prive di cure perché non hanno un medico di base. Ecco, la legge prevede che queste persone invece possono avere un medico di base, possono essere avviate all'ASL attraverso i servizi sociali e scegliere, come tutti quanti noi, un loro medico di fiducia, un medico di medicina generale, e possono quindi essere curate. Tra l'altro, la vita di strada procura anche malattie croniche che difficilmente nei pronto soccorsi poi vengono diagnosticate, no? Assolutamente sì, le persone in strada ovviamente vivono una vita molto difficile e sono molto più soggette di altri a malattie. Pensate a malattie come il diabete, malattie come l'epatite, malattie come le dermatiti, la tubercolosi e oggi il Covid. Ecco, senza un medico di base queste malattie non vengono curate, si aggravano, e quando poi le persone stanno per morire vanno in pronto soccorso, che è la cosa più sbagliata che si dovrebbe fare, perché la medicina serve a prevenire le malattie, poi dopo eventualmente a curarle. Ma se si prevengono le malattie, dopo non si devono curare. E invece purtroppo oggi succede così. Ci sono tantissime malattie che oggi non vengono curate, malattie che hanno le persone che si trovano in strada. L'assistenza di un medico di base a persone senza fissa dimora è anche un vantaggio economico per il servizio sanitario italiano? Assolutamente sì, ma questo è scientificamente provato e vale per tutti i cittadini, per ognuno di noi, oltre che per le persone senza dimora. Il costo di un medico di base per ognuno di noi è di 44 euro l'anno. Il costo di un accesso al pronto soccorso per ognuno di noi, e quindi anche per una persona senza dimora, varia tra le 150 euro e le 400 euro, con una media di 250 euro. Quindi se una volta sola all'anno uno di noi va in pronto soccorso perché non ha il medico di base, costa circa 250 euro. Quindi dare un medico di base a chiunque serve anche a risparmiare costi per la sanità pubblica, e darlo alle persone senza dimora, in questo caso che non ce l'avevano, sicuramente comporterà un risparmio per le casse della sanità pubblica. Hai già avuto modo di verificare se in assemblea legislativa c'è consenso attorno alla tua proposta, e poi anche un'altra cosa, se questa proposta possa essere recepita anche a livello nazionale? Intanto in regione io l'ho depositato solamente oggi, però ho già visto che c'è insomma un grande consenso sicuramente nelle forze di maggioranza. Io sinceramente spero che una legge del genere venga approvata all'unanimità, chiederò il voto e mi metterò a disposizione anche delle forze di minoranza se dovessero avere delle perplessità, dei dubbi, dovessero chiedere dei chiarimenti, perché spero davvero che venga approvata all'unanimità. Ad oggi, ma è stata appena depositata, sicuramente posso dire che c'è un apprezzamento da parte di tutte le forze dell'attuale maggioranza in regione. Mi piacerebbe insomma che l'Emilia Romagna facesse da apripista e che ci fosse questa legge regionale diventasse nazionale, cioè che servisse a stimolare una norma simile a livello nazionale che consenta a tutte le persone senza dimora in tutti i territori italiani di poter essere curate, di poter avere un medico di base.